Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Droni, fino a qualche anno fa bisognava spiegare cosa fossero, mentre ormai hanno addirittura invaso i negozi di elettronica, dove se ne trovano per tutti i gusti, dai quadricotteri e droni ad ala fissa per bambini, fotografi appassionati di aeromodellismo, tanto che c'è chi addirittura paventa un'invasione incontrollata dei cieli da parte di questi mezzi. Quel che è certo è che le possibili applicazioni sono numerosissime e che ogni giorno qualcuno se ne inventa una nuova. E allora abbiamo deciso di dedicare all'invasione dei droni, chiamiamola così, lo speciale Smart City di questo mese, che inizia questa sera e ci accompagnerà per il resto della settimana. Un viaggio che cominciamo subito con l'aiuto di Luciano Castro, giornalista, presidente di Roma Drone, che ogni anno organizza Roma Drone Campus, appuntamento fisso per conoscere le novità del mondo dei droni. Buonasera Luciano, benvenuto. Buonasera a voi tutti. Allora, intanto ci sono varie applicazioni proprio in campo Smart City, no? Che è il settore di cui spesso ci occupiamo in questa trasmissione, che appunto proprio Smart City si chiama. Smart City è ambito cittadino, che peraltro è anche uno degli ambiti più difficili, diciamo, per le implicazioni sulla sicurezza, no? Sì, indubbiamente sulle città, secondo i regolamenti attuali, non è possibile volare così in chiunque e comunque, bisogna seguire certe regole e certe cautele. In ogni caso l'impiego dei droni in città è possibile, ci sono varie applicazioni che riguardano le smart city, ad esempio la qualità della nostra vita in città. Faccio riferimento all'impiego di droni per la mappatura dell'amianto, c'è un progetto che si chiama Asbesto 2.0, portato avanti a tre città, Avellino, Pisa e Alessandria, che faranno la mappatura dell'amianto nelle scuole, oppure della qualità dell'aria. C'è una società romana con un progetto che si chiama Drone Lab, che è capace di avere a bordo 5 sensori per valutare la presenza di anidride carbonica, acido solforico, anidride solforosa, metano, idrocarburi nell'aria che respiriamo. Ecco, ricordiamoci che le centraline quasi sempre sono fisse, mentre il drone ha il vantaggio di potersi muovere, appunto, no? Per prendere questo tipo di misure. Qualche altro esempio? Ma per esempio ci sono applicazioni interessanti dal punto di vista della nostra salute, il trasporto di campioni biologici o di sangue tra gli ospedali, cosa che spesso nelle specie nelle grandi città viene affidato dai mezzi su ruote, quindi ambulanze. O delle ambulanze che corrono follemente per le città per portare del sangue magari in caso di emergenza. Questo sistema, questo servizio potrebbe essere sostituito in maniera efficace da dei droni automatici che decollerebbero da un ospedale e raggiungerebbero. Tra l'altro con costi molto più bassi, con costi anche molto più bassi. Anche tempi molto più bassi, perché dovrebbero avere a che fare con il traffico cittadino. C'è anche da dire che piccoli dirigibili radiocomandati sono utili per sorvolare zone dove ci siano assembramenti di persone o folle, perché anche in caso di guasto la loro discesa è lenta e quindi non avrebbero danni, non farebbero danni sulle persone che sorvolano. Ok, poi addirittura ci sono delle agenzie immobiliari che si stanno dimostrando interessate ai droni. Il mondo, direi, del residenziale, in che misura? Nel senso che noi sappiamo bene, quando cerchiamo una casa da affittare o da comprare, al massimo troviamo qualche foto o qualche piccolo video fatto all'interno. Ecco, l'impiego del drone consentirà, anzi già consente, a talune agenzie immobiliari di mostrare la casa che uno vorrà abitare per una vacanza o comprare per la sua vita in una prospettiva tutta nuova, cioè dall'alto. Quindi non solo l'abitazione in sé, ma anche il contorno, dove è collocata, come è esposta, quali sono le vie cittadine che la circondano, com'è il traffico. E poi sicurezza in casa attraverso i droni. Allora, c'è la sicurezza innanzitutto affidata alle forze dell'ordine, e questo sappiamo che la polizia, i carabinieri, tutte le forze dell'ordine stanno sperimentando l'impiego di questi mezzi. Recentemente li abbiamo visti all'opera, non so, al Festival di Sanremo la polizia si è presentata con un drone per fare le prime sperimentazioni. E poi ovviamente c'è la possibilità anche della sicurezza personale delle singole abitazioni. C'è un progetto di una startup americana che si chiama Sunflower, che è un sistema che fa rete fra alcuni piccoli lampioncini nel giardino della villetta e un drone che può decollare in caso di allarme, è fatto decollare direttamente dal proprietario dell'abitazione con il suo smartphone. Ecco, quindi questo parte e vede che cosa sta succedendo intorno alla casa. Uno dei mondi che si sta interessando ai droni, pare strano, ma è quello dei carri attrezzi. Sì, c'è una proposta dell'Automobile Club d'Italia presentata all'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di poter montare un piccolo drone multirotore su ogni carro attrezzo. Questo consentirebbe, visto che i carri attrezzi sono i primi a intervenire in caso di incidenti automobilistici, di far decollare il drone, e il drone stesso dovrebbe fare delle immagini dell'incidente prima che i mezzi vengano spostati, sia ad uso delle assicurazioni sia per l'intervento della magistratura. C'è tutto un filone che era presente anche all'ultimo prossimo Roma Drone Campus, che riguarda il droni incapaci di volare molto a lungo. Sì, perché la durata delle batterie dei droni, tutti i droni sono droni a propulsione elettrica, è un po' il tallone d'Achille oggi. 3 ore, no? Il massimo più o meno. Remoto, sì, perché sono i droni multirotori, riescono a volare alcune decine di minuti, chi 5, chi 10, chi 20, 25, 40 minuti, ma insomma delle cifre relativamente ridotte. L'impiego di due nuove tecnologie, o meglio alcune sono un ritorno, i dirigibili, cioè degli oggetti più leggeri dell'aria e dei droni ad ala fissa, consentirebbe di aumentare in maniera importante la durata del volo. Grazie Luciano Castro, ci risentiamo però domani per continuare a raccontare un po' di novità su questo mondo dei droni. Bene, certo, allora ci risentiamo domani. Per intanto ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani, restate con noi.